Prima edizione. E alle 6:15 minuti, puntualissimi, siamo pronti per cominciare con prima edizione, con tutte le notizie della notte e delle ultime ore. Come sempre però non possiamo non cominciare con lo sguardo ai quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Cominciamo con il Sole 24 Ore. Questa mattina il fondo Salva Euro passa a Berlino, così titola il Sole 24 Ore. Ne abbiamo parlato parecchio anche noi nei giorni scorsi. Ieri c'è stato il voto al Parlamento tedesco, ha vinto la linea della Merkel. Era stato approvato a larga maggioranza il potenziamento del fondo Salva Stati. Borsa in rialzo, titola ancora il Sole 24 Ore, dove l'immagine però che campeggia in prima pagina arriva da Atene, dalla Grecia, dove c'è stato ieri l'assedio ai ministeri con dipendenti pubblici in piazza contro i piani di austerità, anche perché già dagli stipendi di ottobre, ricordiamo, la Grecia potrebbe avere qualche problema, e ben più d'uno. Maxi cedola dai gioielli di Stato, intanto sul fronte italiano, a centro pagina sempre sul Sole 24 Ore, Tremonti avvia la vendita del patrimonio pubblico, da immobili e diritti si attendono 40 miliardi. Parliamo di Fintecna, Poste, Ferrovie e Sogei, così il Sole 24 Ore. La Repubblica, apertura un po' diversa questa mattina per quanto riguarda i quotidiani, il tema è lo stesso ma sono abbastanza vari. La Repubblica, dicevamo, industriali schiaffo al governo, gli giovani imprenditori al convegno di Capri non parleranno politici, troppe promesse non mantenute. Anche qui subito sotto vince la Merkel, sì, della Germania al fondo Salva Stati. E poi a centro pagina invece della Repubblica, Bari, Berlusconi sarà indagato, ma non farò la fine di Craxi. Il procuratore Laudati si sospende dall'inchiesta, confermato il mandato d'arresto per la vitola. Il pescivendolo di Parma, nuovo eroe dei Berluscones, così la Repubblica. Banca Italia, avanza Sacco Manni, il Corriere della Sera, che punta l'attenzione invece sul futuro di Banca Italia. Il Premier e il PDL spingono per la continuità. Tremonti resiste, il Tesoro valorizzare il patrimonio di Stato, subito 25-30 miliardi dalla cessione di immobili. Così il Corriere della Sera. A centro pagina, ieri a Roma la manifestazione contro la riforma della legge sulle intercettazioni, la maggioranza accelera, alla Camera se ne parlerà mercoledì. C'è un'intervista a Veltroni sul Corriere della Sera, il Cavaliere faccia il passo indietro per il bene del Paese. La Stampa, crescita, il governo rinvia, lo Stato meglio valorizzare il patrimonio che vendere, i giovani di Confindustria, niente politici al nostro convegno, slitta a metà mese però il confronto sul decreto, così la Stampa, che anche qui ha a centro pagina un'immagine della Merkel trionfante ieri, via libera agli aiuti, la Merkel salva l'euro. Così la Stampa, che riporta anche un allarme dei sindacati, ve lo segnaliamo subito a centro pagina. Niente soldi in cassa, scatti congelati ai prof, l'allarme dei sindacati. La brutta notizia per il mondo della scuola arriva dalla Corte dei Conti: non ci sono soldi per gli scatti dei professori e dei bidelli. A dispetto delle promesse del governo, mancano 664 milioni di euro nel bilancio 2011. I sindacati sul piede di guerra annunciano mobilitazioni se non si troverà una soluzione. Il ministero getta acqua sul fuoco, col Tesoro nulla è ancora deciso, così la Stampa. Il Messaggero, crisi, il piano delle imprese, subito pensioni e taglio IRAP, Tremonti in vendita i beni pubblici, così anche il Messaggero. C'è in edicola oggi anche l'Espresso, fabbrica italiana automobili Detroit, il mercato langue, nuovi modelli e progetti slittano, le agenzie di rating puniscono, per Marchionne nel suo progetto comincia l'anno più difficile, così l'Espresso. Qualche altra segnalazione dai quotidiani di oggi, torniamo sul Repubblica, dove c'è un'immagine di Totò Riina, abbiamo parlato del figlio del boss che dovrebbe andare a Padova domenica tra le proteste, le confessioni di Riina, autoritratto di un boss, il racconto di Attilio Bolzoni questa mattina sulla Repubblica. Due storie dal Corriere della Sera, via la bimba down dalla foto di classe, il caso di una scuola elementare in Basilicata e ancora furto da un euro, giustizia mobilitata, se un ovetto rubato merita il processo, così da il Corriere della Sera. Altra segnalazione questa mattina ancora invece dal Messaggero, un'altra storia di cui molto si è parlato, TBC test su 3.000 bambini. Al Gemelli, sentenza del TAR, analisi anche sui nati nel 2010. Il TAR del Lazio ha disposto che siano estese anche ai bimbi nati nel 2010 al Policlinico Gemelli di Roma circa 3.000 test sulla tubercolosi, così la richiesta era del Codacons. Questo per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. E questa mattina non dai giornali passiamo non alla TV per farvi risentire un po' quel che è successo ieri sera, ma vi facciamo risentire la radio e per una volta parliamo di noi stessi. Caro Silvio, è il momento di godersi la vita, sono state le parole di Santo Versace alla Zanzara con Giuseppe Cruciani ieri sera. Il deputato calabrese è uscito dal PDL e da ieri è approdato al gruppo misto, eccolo. Tanti fattori, tanto per cominciare ci sono tutti i miei amici dall'estero che mi hanno tempestato e mi hanno fatto riflettere su tante cose. Che le dicevano dall'estero? Ma mi dicevano chiaramente, Santo, come stai, come fai a sopportare queste robe e tutto il resto? Cioè, Santo, in un paese, negli altri paesi europei o in America una roba del genere sarebbe già superata e in molti casi questa situazione sarebbe chiusa e superata politicamente. Cioè con la dimissione di Berlusconi? Ma sai, ci sono momenti in cui anche il caso Romano è stato l'ultimo, perché quando c'è un ministro che viene inquisito e non sente il dovere di fare un passo indietro, sì, e si mette la fine, diciamo così, no, a sto punto basta. Così, alla Zanzara, ieri sera, l'addio di Santo Versace alla PDL. Altro sguardo ai media però internazionali ieri sera, sulla TV francese, sul primo canale della TV francese, è andata in onda ieri sera un'attesa intervista, quella alla donna, la giornalista francese che accusa Dominique Strauss-Kahn, un confronto molto atteso. Dominique Strauss-Kahn ieri si è trovato faccia a faccia con Tristan Bannon, la giornalista che lo accusa di aver provato a violentarlo 8 anni fa, poi lei è andata in TV e in diretta al TG della Sera ha dichiarato: io l'ho guardato sempre negli occhi, lui non ne ha avuto il coraggio, ha tentato di violentarmi, si è fermato solo all'ultimo. Così le parole ieri sera sui TG francesi. E restiamo alla stampa internazionale, ma coi siti internet questa mattina. Facciamo un balzo sul Washington Post con una novità che arriva dagli Stati Uniti. Il titolo del Washington Post online questa mattina è così: volge al termine l'era a basso costo bancario. Questa è un po' la traduzione. Che succede? Washington Post scrive: Bank of America sarà il primo grande banca ad addebitare ai clienti un canone mensile di $5 per fare shopping con le carte di credito. Fa parte di un'ondata di cambiamenti che stanno erodendo il modello a basso costo di cui i consumatori bancari hanno goduto. E il sistema delle carte di credito è fondamentale negli Stati Uniti. Wall Street Journal Online apre invece con un'immagine di Angela Merkel, l'abbiamo vista anche sui nostri quotidiani, superato un grande ostacolo, anche l'Europa aumentando la potenza di fuoco del suo fondo di salvataggio dopo gli Stati Uniti, scrive il Wall Street Journal, ha deciso di aumentare il suo contributo, ma anche i sostenitori delle misure anticrisi approvate ieri hanno capito che saranno probabilmente necessarie già mosse ulteriori. Fa un passo avanti già il Wall Street Journal. Sul Time invece la situazione in Gran Bretagna anche qui alle prese comunque con pesanti tagli, pronti a ripensare i tagli degli assegni familiari, controversi piani, scrive il Times, per rimuovere assegni familiari dei lavoratori riguarderebbero 1 milione di famiglie per 1.000 sterline l'anno, così la stampa internazionale. Torniamo a casa nostra, voltiamo pagina con Adriana Fracchia e con un appuntamento che ci porta a Torino. Infine, vivere sul limite dei tempi è il tema centrale della nuova edizione di Torino Spiritualità, la rassegna del Circolo dei Lettori che da 7 anni si svolge nel capoluogo piemontese. 4 giorni per parlare di spiritualità, appunto, e non soltanto in relazione alle diverse religioni. Oltre un'ottantina gli incontri con più di 100 ospiti italiani ed internazionali per indagare sulle questioni sollevate dall'annunciata fine del mondo, come prevede la profezia dei Maya nel 2012, ma anche per dibattere sul senso di incertezza quotidiana che stiamo vivendo. vivendo. Ad Antonella Parigi, direttore di Torino Spiritualità, abbiamo chiesto quanto è importante, specialmente oggi, recuperare una dimensione etica e spirituale. Ma una dimensione spirituale c'è, che uno lo voglia o non lo voglia, nel senso è una delle caratteristiche, no? Comunque della diversità dell'essere umano, no? Quello che invece diciamo è qualcosa da conquistare, è una dimensione etica, di ricerca, di profondità. Secondo me in questo momento credo che tutti ci rendiamo conto di quanto ad averla, come dire, abbandonata sia negativo nella nostra vita quotidiana. Ogni giorno è un richiamare nuovamente all'importanza di un senso etico. Certo, ma credo anche che ci sia di fatto l'aver messo l'essere umano in secondo piano, credo che ha, come possiamo vedere, produca veramente delle storture nel nostro modello di vita, per cui ci ritroviamo con dei grandi problemi che probabilmente di qui in poi dovremo raddrizzare. Quattro le sezioni in cui si articola la rassegna torinese: Genesi, Apocalisse, Promesse e Profezie, I tempi sono maturi e infine Visioni dal quotidiano. L'idea è quella di fare un percorso insieme al pubblico in cui si inizi e si ritorni a casa modificati, cambiati. Allora, noi abbiamo sempre una parte, chiamiamola, più informativa, più, come dire, di conoscenza, e poi teniamo molto ad avere delle parti di testimonianza, di costruzione sul presente. Quindi, per esempio, nelle visioni dal quotidiano abbiamo voluto parlare di persone che lavorano per il presente, che lo costruiscono in modo positivo, perché parlando di futuro, di questo supposto fine del mondo, in realtà questo è un modo di parlare di come possiamo rendere, come dire, un'opera d'arte il nostro presente. C'è da un lato un gioco con questa profezia del 2012 di cui, come si dice, si ciarla, e quindi c'è anche un gioco sul fatto di questo, così, idea, ma dopodiché c'è anche una sensazione più vera, che è la sensazione che ci attraversa noi come appartenenti a società occidentali mature, no? Quindi quella di una fine, no? Di un modello, di una fine di un qualcosa, siamo tutti impauriti, e quindi ci sembrava questo senso di vivere sul limite dei tempi un senso che connota la nostra attualità, e abbiamo voluto anche raccontare che questa connotazione ha attraversato tutta la storia dell'umanità, no? Cioè, l'umanità ha sempre avuto la sensazione di essere sul limite dei tempi in moltissimi, no, altri momenti storici, ma soprattutto quello che a noi appunto preme è raccontare come il fatto di vivere con un limite significa investire sul presente, soprattutto quello. Prima edizione. 6:34 minuti, puntualissimi questa mattina, ancora una buona giornata da Anna Migliorati, è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. Anche nel centrodestra prende sempre più piede l'ipotesi di primarie prima di arrivare alle elezioni. Ma che ne pensa la base? Barbara D'Amico ha sentito il parere di alcuni militanti del centrodestra. Alfano gode di un endorsement molto forte. Non va dimenticato che però Formigoni è un uomo molto forte, con 4 mandati alle spalle in Lombardia, un uomo molto stimato, con dietro l'apparato di CL che nella vecchia Forza Italia pesava molto. E infine ci potrebbe essere Alemanno, che è sindaco di Roma, che si può raccogliere, chiamare raccolta tutta la vecchia componente di Alleanza Nazionale, che però ha subito diverse uscite dopo il fatto di Fli, e questo forse magari dei tre potrebbe essere un attimino più debole. Maroni è visto come un interlocutore credibile anche da parte di molti, diciamo, di molti commentatori stranieri. Se la Lega si aprisse in una fase diversa, questo magari potrebbe proiettare Maroni verso una leadership anche del centrodestra. La persona più riconosciuta all'interno del terzo polo è Casini in questo momento, come, diciamo, persona più in grado, a mio parere, di prendere in mano le sorti del partito in senso stretto più politico. Il presidente Fini ha fatto una scelta differente, ha scelto di essere uomo di istituzione e quindi di non essere un leader di un movimento politico. All'interno stesso del PDL non si crede più nella figura di Silvio Berlusconi, quindi io credo che una persona come Casini possa essere la persona più autorevole. Lombardo, vedo Formigoni che ha appoggiato parecchio il nostro federalismo, conseguenza per me la persona più indicata è, diciamo, ancora il Formigoni, non certamente un Alfano, Alemano poi non ne parliamo. Il leader principale è comunque Umberto Bossi, non ci sono dubbi. Ci sono altri personaggi del tipo Maroni in primis per me, persone che sono tutte comunque valide e sono tutte persone che lavorano per la Lega. Ma sicuramente Casini è una figura rappresentativa del centro per quanto riguarda una leadership indiscussa. Figure di spicco ce ne sono e ce ne sono tante che potrebbero eventualmente prendersi carico di una guida del paese. Maroni è una persona che potrebbe sicuramente avere un ruolo importante. La berlusconiana è finita sicuramente al 100%. Adesso c'è questo Alfano, che poi sarebbe un Berlusconi bis. Noto che Formigoni, lo stesso sindaco di Roma, Alemanno, eccetera, concorreranno. Quindi anche tra di loro ci sarà una bella concorrenza. La spunterà Alfano, perché alla fine Alfano avrà i soldi di Berlusconi. E per oggi è tutto, l'appuntamento con Italia in Controluce è oggi alle 13.30. E riprendiamo con prima edizione, le 6:37 questa mattina, e facciamo un balzo dall'Italia al continente asiatico. La notizia è arrivata nella notte, come spesso ci accade. La produzione industriale in Giappone è pressoché tornata ai livelli pre-sisma tsunami dell'11 marzo scorso, che ha devastato il nord-est del paese. Il dato di agosto è un più 0,8%, il quinto rialzo mensile di fila. Insomma, avevamo visto solo l'11 marzo scorso immagini devastanti di un Giappone in ginocchio per il terremoto tsunami. Si parlava di tempi lunghi per la ripresa. In meno di 6 mesi la produzione è tornata a correre. Saluto Stefano Carrera, buongiorno. Sì, buongiorno. Stefano, aggiungiamo anche un altro dato, perché non c'è solo la produzione. La disoccupazione in Giappone è al 4,3% in agosto, dal 4,7% di luglio, anche quella in miglioramento. I cassi integrati meno di 1 milione per la prima volta in 6 mesi, grazie alla ripresa della produzione. È tornato a correre il Giappone, è stato una sorta di miracolo inatteso o ci si aspettava che sarebbe finita così? Ma dunque, intanto certo ci sono voluti 6 mesi, ma l'industria manifatturiera del Giappone è riuscita a superare la crisi provocata dal sisma e dallo tsunami dell'11 marzo scorso. Questo dato di agosto, produzione in salita dello 0,8%, però risulta inferiore alle attese, il che secondo vari analisti segnala due sviluppi. Da un lato c'è la forza dello yen, che resta vicino ai massimi storici sul dollaro e a quelli decennali sull'euro, e questa forza si fa sentire penalizzando le esportazioni, quindi ponendo un freno al recupero produttivo, e dall'altra comincia probabilmente a emergere anche un certo rallentamento sostanziale della domanda esterna legata ai problemi finanziari delle economie avanzate, che iniziano un po' probabilmente a riverberarsi anche sulle economie emergenti. Quindi l'industria giapponese ce l'ha fatta, l'industria giapponese fa anche un po' da cartina al tornasole dell'economia globale, proprio perché rimane largamente orientata sulle esportazioni, e quindi è vero che c'è stato questo recupero, però il momentum, come si dice, di questo recupero non è molto forte. Devo dire che anche il dato sulla disoccupazione non va, secondo me, secondo molti analisti, non va letto come un segnale di robustezza vera del mercato del lavoro. È legato infatti al fatto che molti ex baby boomers stanno andando in pensione. Quindi non è che la forza del lavoro aumenta, la forza del lavoro anzi diminuisce, insomma. È un fattore demografico, cioè percentualmente ci sono più occupati ma lavorano in meno, perché ne stanno entrando meno. Sì, anche perché in fondo in questo momento gli industriali giapponesi sono molto spaventati proprio dalla forza dello yen, che diciamo rende molto meno competitive le loro esportazioni, soprattutto rispetto a certi concorrenti come i coreani, che invece beneficiano di una certa debolezza della loro valuta, del won, no? Che proprio appunto negli ultimi tempi la banca centrale coreana ha dovuto intervenire per sostenere il won, mentre proprio oggi il Giappone ha dovuto cercare di inviare ai mercati valutare un segnale secondo cui si sta preparando a intervenire nuovamente sul mercato dei cambi, infatti ha deciso di aumentare il fondo che è finalizzato appunto a questi interventi sui mercati valutari. Certo, è molto più difficile per un paese del G7 intervenire sul mercato dei cambi con una certa continuità, infatti il Giappone lo fa ma molto raramente, mentre per economie che si ritengono ancora emergenti gli interventi delle autorità sono più semplici, sono più frequenti. Diamo uno sguardo intanto alla borsa di Tokyo, in questo momento perde lo 0,32% nell'ottica anche di quello che tu ci dicevi. Certo, colpisce che intere produzioni che si erano bloccate per il sisma e lo tsunami di marzo siano ritornate come se nulla fosse. Parliamo del settore dell'auto, ma non solo, Stefano. Sì, il settore dell'auto in questo momento è trainante, perché era stato quello più penalizzato. Bisogna pensare che in effetti le zone colpite dallo tsunami, dal terremoto, non sono quelle più industrializzate del Giappone, anzi il Giappone settentrionale è considerato un po' una zona relativamente arretrata, però lì erano state realizzate molte fabbriche di componentistica fondamentale per i grandi impianti industriali che poi sono nel Giappone centrale e nel Giappone occidentale principalmente. Quindi questa interruzione nella catena manifatturiera erano state devastanti soprattutto per i primi mesi. Poi c'è stato un lento recupero e adesso l'industria automobilistica deve rimpinguare gli stock, anche perché appunto anche le fabbriche all'estero, fabbriche giapponesi all'estero si erano fermate o avevano dovuto ridurre di molto la produzione. Quindi proprio ieri la Toyota, per esempio, il principale costruttore giapponese, ha reso noto che la produzione è aumentata rispetto all'anno scorso e anche l'export, quindi un dato in questo senso molto positivo. E comunque c'è da dire che in questo periodo, vista dall'Europa, un più 0,8% fa comunque il suo effetto. Grazie a Stefano Carrera, buona giornata. Grazie a voi. Eccoci, e noi voltiamo pagina come facciamo spesso, voltiamo pagina dall'economia del Giappone e andiamo invece in un'aula di tribunale, quello di Perugia, perché gli occhi del mondo, perlomeno quelli di Europa e Stati Uniti, sono puntati qui. Parliamo del processo per l'uccisione della studentessa inglese Meredith Kercher alla Corte d'Assise d'Appello di Perugia. Sono stati condannati in primo grado, ricorderete, Raffaele Sollecito e l'americana Amanda Knox. Ieri si è conclusa l'arringa dei difensori, ha parlato l'avvocato di Amanda, lunedì si attende la sentenza, oggi dovrebbe esserci la replica dell'accusa. Risentiamo però cosa ha detto in aula l'avvocato di Amanda Knox. Chi è stata qui che è stata crocifissa, che è stata impalata nella pubblica piazza, che è stata oggetto di delle più bieche speculazioni andando a offendere la libertà della persona? A chi è stata stravolta e violentata questa? Non c'è un dolore che vale più dell'altro, perché ci sono i dolori di un ragazzo che sta aspettando giustizia e si dichiara innocente, e lo stesso vale per la nostra assistita, si dichiara innocente, sono 1000 passaggiorni che sta combattendo per questo. Dicevamo, la sentenza attesa per lunedì. Io saluto Nick Pisa, giornalista di Sky, che sta raccontando in lingua inglese quello che sta accadendo in Italia. Buongiorno. Buongiorno. Che idea vi siete fatti? Amanda Knox mediaticamente crocifissa sulla pubblica piazza, ha detto il suo difensore. Vi è parso da stampa estera? Sicuramente sì, perché abbiamo tutti, cioè non solo gli inglesi, ma tutte le media internazionali hanno riportato la notizia, tutta la cronaca del processo, tutti i fatti che sono usciti in questi 4 anni da quando è successo questo delitto, perché cioè si vede camioncini che sono qui, tutte le truppe televisive, il BBC, Noise, Sky, CNN, ABC, CBS, cioè la lista è lunghissima. È lunghissima. Io dicevo, gli occhi del mondo sono puntati qui e la realtà appare proprio quella. Prima edizione. Torniamo a Perugia con Nick Pisa, giornalista inglese di Sky. Dicevamo, grande attenzione della stampa internazionale, che idea vi siete fatti dell'accusa italiana? Sì. Della giustizia italiana? Esatto. È un processo molto diverso da quelli che siamo abituati, diciamo, nel Regno Unito, perché è durato molto tempo, cioè quasi 10 mesi, e poi questo fatto di avere delle udienze soltanto 2 volte alla settimana, la maggior parte delle udienze per il primo processo, anche questo, sono state soltanto di venerdì e sabato, per il motivo che uno degli avvocati degli accusati, Raffaele Sollecito, l'avvocatessa Giulia Buongiorno, ovviamente un deputato in Parlamento, e aveva lavori da fare in Parlamento a Roma durante la settimana, quindi le udienze si sono fatte fine settimana. Questa è una cosa che hanno trovato abbastanza strano il pubblico inglese, perché lì quando inizia un processo prosegue giorno dopo giorno fin quando non finisce, quindi abbiamo fatto, non so, quanti udienze, mi sembra 2 al mese. Tempi lunghi. E uno dimentica quel che è successo prima e quant'altro. Pare che peraltro la vicenda debba completamente ribaltarsi, perché certezza in primo grado, ora si parla sempre più di assoluzione. Che idea ti sei fatto? Ma per dire la verità anch'io penso così, perché cioè la prova schiacciante per me non c'è, cioè se hai un ragionevole dubbio non puoi condannare cioè 2 ventenni ad ergastolo, perché qui stiamo parlando di 2 ragazzi di appena 25, Amanda 24, Raffaele 27, ergastolo per loro per qualcosa che sembra dal processo dell'appello che non hanno fatto, mi sembra non giusto, quindi probabile che finisca così. Gli americani hanno promesso un jet per riportare subito Amanda negli Stati Uniti. A Londra e in Gran Bretagna si parla ancora della vittima, di Meredith. Sì, però gli americani negano che hanno fatto tutto questo. Questa è la cosa interessante, di vedere cosa succede se viene assolto lunedì sera, quando abbiamo la notizia. Sì, ovviamente in Inghilterra c'è un po' di... c'è un po' di amarezze che in tutto questo è proprio la vittima si è dimenticata di questo. Anche perché se saranno assolti si riapre tutto e quindi... No, infatti, cioè dopo 4 anni, perché infatti questa è la domanda che propone la famiglia Kerch, da quello che ho saputo io, cioè 4 anni fa tutto questo, 2 anni fa tutto questo clamore, tutti questi processi intensi e sono stati condannati, adesso 2 anni dopo... assolti, cioè cosa è cambiato in 2 anni? Queste sono quelle che non riescono a capire loro. I tempi lunghi e queste non certezze, se ovviamente finirà così, anche se appare sempre più certo. Il verdetto, dicevamo, atteso lunedì. Nel frattempo grazie a Nick Pisa, corrispondente da Londra di Sky. Buona giornata. Alessandro Milan, torniamo in Italia. Hai sentito, sono stupiti gli inglesi per i nostri tempi lunghi dei processi. Ma dai. Guarda un po', non ce l'aspettavamo, ahimè. Beh, insomma, c'è una storia di giustizia. Questa la vuoi leggere tu, il titolo sul Corriere della Sera? Vediamo. È bellissima. L'ovetto rubato che blocca la giustizia. Ecco, visto che si parla di giustizia, c'è uno che ha rubato, pare forse, un ovetto Kinder. 1,04 euro di valore, e sta paralizzando. Questo sarà un processo velocissimo. Si sta imbastendo un processo a Taranto con cancellieri, fotocopie, tribunali, giudici, avvocati, difensori, PM. Un'udienza al mese, come ci diceva prima. Esatto. Chissà quanto impiegheremo. Migliaia di euro di costo del processo per un ovetto Kinder di 1 euro, che non si sa neanche se è stato rubato o no. Si discuterà. Sì. E poi sarà emessa l'ardua sentenza. Davvero ardua e costosa. È costosa, certo. È costosa soprattutto. Grazie ad Alessandro Milan. Questo e altro naturalmente nella rassegna stampa alle 7:20 e poi 24, le interviste di 24 mattino. Carmelo Lauricella resta in regia, così come Alessandro Longoni. Noi ci sentiamo tra poco con le notizie di GR24. Buona giornata, buon venerdì da Anna Migliorati.